Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. In questa nuova puntata del quadrifoglio parliamo di pane, un alimento che, assieme alla pasta, più di ogni altro compare quotidianamente sulle tavole degli italiani. Oggi l'offerta sulle scansie dei panifici è quanto mai varia: c'è pane bianco, pane integrale, di farro, kamut, con i semi di miglio, di girasole, con le olive e chi più ne ha più ne metta. Ma come essere sicuri di acquistare un ottimo prodotto? Quest'estate, per esempio, sono state diffuse alcune notizie che hanno allarmato i consumatori, relative a pani provenienti da paesi esteri anche lontani. Addirittura si è scritto che una pagnotta su quattro tra quelle consumate non sarebbero pane fresco, ma pane industriale e decongelato di provenienza anche poco nota. Ecco, per chiarire qualche dubbio su queste questioni, ne parliamo con Ruggero Garlani, presidente dei panificatori Confartigianato di Vicenza. Come prima cosa le chiederei proprio che cosa c'è di vero in queste notizie sui panini decongelati di provenienza estera di cui si è parlato in quest'estate, e poi che differenza c'è tra un pane industriale e un pane artigianale come quello che fanno i panificatori della vostra associazione. Sì, è tutta verità, è vero, ma non da adesso, è più di qualche anno, e noi l'abbiamo già denunciato 3 o 4 anni fa addirittura. Allora, proprio riguardo a questo, la Regione Veneto sta portando avanti una legge per difendere il pane, pane fresco, e specialmente quello del territorio veneto. E spero che facciano in fretta, perché ne abbiamo veramente bisogno, da parte nostra, ma specialmente da parte dei consumatori, perché loro pensano di mangiare pane fresco prodotto di giornata, invece è prodotto magari di qualche anno fa addirittura. E spesso arriva dall'est, Europa dell'est. Ecco, però questo pane si trova in che tipo di negozi? Non credo nei panifici classici di paese. No, si trova nella grande distribuzione. E tra l'altro succede questo, che non viene indicato che il pane è surgelato. Allora, all'inizio, alla mattina, vendono pane dell'artigiano, tra virgolette artigiano, cioè, diciamo che è un artigiano quasi industriale. Appena finito quello, mettono in mercato il surgelato. Di conseguenza il cliente pensa sia artigiano, e dopo, se non è buono, è colpa dell'artigiano. Ecco, ci può essere qualche problema di qualità, semplicemente? Sì, sicuramente di qualità, ma anche di gusto, di durata. Cioè, si sente che non è un prodotto fresco, lo si sente, insomma. Abbiamo parlato di varietà anche di prodotti a base di pane che si trovano nei negozi, ma c'è stato un fiorire di grandi tipologie, di tutte queste tipologie che citavamo. Trovano gradimento nei clienti? Diciamo che per il cliente ne manca sempre uno, perché vogliono sempre una cosa nuova, no? E però se andiamo sul surgelato non trovano tutto questo grande assortimento. Però il problema è che non è dichiarato pane prodotto da pane precotto o surgelato, non è dichiarato, e questo, certo. Questo non va bene. In effetti la regione sta portando avanti, quello che dicevo prima, una proposta di legge in difesa del pane fresco, in difesa del panificio, che il panificio si chiama solo chi produce il pane, e inserisce una figura responsabile del laboratorio, che questo deve, oltre ad aver fatto qualche anno di apprendistato o lavorato come panettiere, la formazione continua, e anche questa è una garanzia in più. Cioè, certo. Uno non si improvvisa panificatore, perché non è facile. Certo. Senta, la qualità dipende anche dagli ingredienti, che a volte incidono, anzi che di norma incidono sul prezzo del pane. Possiamo ricostruire cosa fa il prezzo del pane che poi noi andiamo ad acquistare? Sì, allora diciamo inizialmente che il pane è sempre sulla bocca di tutti, forse perché l'alimento storico è povero, è un prodotto povero tra le tre altre cose, però è pieno di significato. Allora, proprio in questo momento tramite telegiornali e giornali, i cereali sono aumentati e stanno aumentando fuori di misura. Ma non solo i cereali, basta guardare il gasolio, la benzina, certo. I trasporti. Probabilmente, non so, non voglio mettere le mani avanti, ma può anche essere che il pane dovrà aumentare per riuscire almeno a assorbire i costi vivi, almeno i costi vivi. Che dopo il pane sia fuori prezzo non lo credo, perché comunque ricordo io negli anni 80 una famiglia di 4 persone arrivava a consumare anche 1 chilo di pane al giorno. Adesso parliamo di 100-120 grammi, 60 grammi addirittura, cioè non penso che 60 grammi, anche se mettiamo 10 euro al chilo, non so cosa viene a costare 60 grammi, no, non certo. Sarà mai 10 euro, ma spariamo al massimo 10 euro al chilo, non arriverà mai. Comunque il prezzo medio adesso, vedo qua anche nelle nostre zone, parte dagli 2,70, 3,30 arriva, dopo ci sono i panni speciali, ma ci sono altre cose all'interno. Ma cioè, non trovo corretto continuamente impuntarsi sul certo. Pane, sul prezzo del pane, non lo trovo corretto. Certo. Certamente dopo i furbi, le mele marce ci sono dappertutto e queste è giusto bastonarle, queste sì è giusto bastonarle. Bene, ci fermiamo allora per qualche minuto, torniamo in linea fra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. Ci credere se all'improvviso ti giri e più forte respiri. No, non ci credere se nella notte un po' mi disegni e poi ti rassegni. Io non ti sento, tu sei distratto, non c'è contatto, nemmeno a letto. Non c'è cantare, non c'è sognare, nel tuo cercarmi non c'è calore. Non ti chiedo di lasciarmi entrare. Ma se è vero che mi ami, apri le tue ali. Io ci sono adesso. Libera i tuoi sensi e le paure che non sai. Rimani e ti allontani, ma io ti sento addosso. Scivoli nell'anima e di nuovo te ne vai. No, non ci credere se il rimpianto consuma le foto che guardi. È già troppo tardi, no, non ci credere se prima chiedi permesso e poi annienti te stesso. Ti sono accanto, ma non ti sento, il tuo sorriso è un fuoco spento. Non c'è inventare, non c'è scaldare, in questa stanza non c'è più sale. Io ti chiedo di lasciarmi entrare. E se è vero che torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Stiamo parlando oggi con Ruggero Garlani, presidente dei panificatori Confartigianato di Vicenza, del prodotto pane. Ecco, parlavamo prima di ingredienti di qualità e tra questi c'è anche una parola particolare che è pasta madre. Che cos'è la pasta madre? Allora, la pasta madre è formata da acqua e farina. e basta. Ed è l'ingrediente base del pane artigianale? È l'ingrediente base, sì, del pane artigianale. E, quello fatto con lievito naturale o lievito madre dura molto di più, ha un sapore diverso, si sente veramente, resta più fragrante. Invece con lievito di birra, che si, sì, diciamo di birra, la lievitazione è molto più veloce, però la durata è molto inferiore. Ma nei panifici artigianali almeno si trova prodotti a base di pasta madre oppure è raro ancora? Diciamo che non in tutti i panifici, però stiamo ritornando alla vecchia maniera, no? Quando si usava veramente il lievito madre, anche perché il lievito di birra non esisteva in quei certo, periodi. E comunque si sta tornando indietro perché c'è la continua formazione sulla qualità, sulle tecnologie, perché anche lo stesso lievito madre non si rinfresca, non si mantiene più come un tempo. Cioè è sempre un bambino che devi far crescere, però è molto più, diciamo, facile adesso di una volta. Quindi bisogna accudirlo. Esatto, come un bambino. Come un bambino. Senta, a proposito di varie tipologie di pane, voi come panificatori di Vicenza avete promosso di recente un nuovo prodotto che si chiama La Vicentina, quindi un pane che ormai parecchi panifici nel territorio della provincia stanno facendo. Che cos'è esattamente questo pane? Proprio riguardo il pane La Vicentina, è frutto di vari corsi di formazione che portiamo avanti da qualche anno. Studiando la lievitazione e i vari prodotti che abbiamo qui nel territorio di Vicenza, abbiamo fatto molte prove e ne è uscito la Vicentina, con farina tipo 1, grano turco di Marano Vicentino, mais Marano sarebbe, l'olio extravergine di Berici, cioè è formato solo dei prodotti del territorio. Solo prodotti locali? Locali, esatto. Quindi di alta qualità? Farine macinate da mulini artigiani del posto. Esatto. E quindi è un prodotto di eccellenza. Di eccellenza, sì. Ecco. Per assaggiare questo prodotto voi avete organizzato una manifestazione, una cena che si tiene venerdì 12 ottobre. Può già darci qualche anticipazione? Sì, è la seconda serata della scarpetta, la prima l'abbiamo fatta il 6 di settembre. È andata molto bene e spero che anche la seconda vada bene. Io sinceramente, come presidente di Vicenza e come consigliere anche regionale, spero di riuscire a portarla anche nelle altre province del Veneto. Ringraziamo Ruggero Garlani e vi invitiamo, se passate dalle parti di Vicenza, quindi a chiedere la Vicentina, questo nuovo pane, e se siete interessati invece alla seconda serata della scarpetta Cena in Villa Senza Posate, che si terrà venerdì 12 ottobre a Villa Cordellina di Montecchio, a cercare informazioni sul sito internet www.confartigianatovicenza.it. Passiamo ora ad alcune notizie. Grapperie aperte, l'imperdibile appuntamento promosso dall'Istituto Nazionale della Grappa si svolgerà domenica 7 ottobre in tutta Italia. Per un'intera giornata si apriranno al grande pubblico le porte di numerose distillerie. Un'occasione di grande interesse se si considera che la maggior parte delle 136 grapperie italiane funziona ancora con alambicchi antichi, tutti diversi l'uno dall'altro. 5 sono le distillerie aperte nel Veneto per l'occasione, ovvero la Castagnère di Treviso, la distilleria sperimentale di Conegliano, la più piccola in Italia, sita presso la scuola enologica Cerletti, mentre nel Vicentino ci saranno la Brunello a Montegalda, la Liria a Villaga e la Poli con il Museo della Grappa a Schiavon. Informazioni sul sito internet www.grapperieaperte.it. Si tiene a Longarone, in provincia di Belluno, dal 28 al 30 settembre la fiera Expo Dolomiti, patrimonio dell'umanità. La manifestazione è la sua seconda edizione ed è nata a seguito dell'iscrizione da parte dell'UNESCO delle Dolomiti tra i patrimoni dell'umanità. Più che una fiera, è un'occasione per promuovere queste montagne e per far conoscere quanto esse siano una risorsa per le 5 province, 3 venete e 2 friulane, su cui insiste il territorio dolomitico. L'orario di visita della manifestazione è dalle 10 alle 19. Giunge alla terza edizione la rassegna C'è davvero del sale in zucca, ideata dall'ortomercato di Chioggia per rilanciare la coltivazione e il consumo della zucca marina. L'evento si svolgerà in autunno in più tappe, dal 3 al 7 ottobre in Prato della Valle a Padova durante la Sagra del Pesce, dal 19 al 21 ottobre nei padiglioni del mercato ortofrutticolo di Brondolo, dal 9 all'11 novembre in Piazza Marina a Chioggia. Ogni mercoledì, a partire dal 10 ottobre, alcuni ristoranti proporranno serate enogastronomiche con menù a base di zucca e pesce. Informazioni sul sito www.ortomercatochioggia.it. Dal 5 al 7 ottobre, nella prestigiosa cornice di Villa Loredana a Stras, si terrà la sesta edizione della manifestazione Polenta Oro in Tavola, un'occasione per scoprire le mille qualità dell'alimento più rappresentativo della cultura contadina veneta. Oltre a una mostra con le migliori farine del nord Italia, si terrà un mercatino con la presenza di aziende produttrici di farine da polenta e alimenti da abbinare ad essa. La 10ª edizione della Festa della Transumanza e dei prodotti tipici dell'Alta Padovana di San Pietro in Gù, in provincia di Padova, si svolgerà domenica 7 ottobre presso il Parco Giochi Comunale di Via Mazzini. Rientreranno dal lampeggio e passeggeranno per il paese le mandrie delle aziende Nicolin e Allegro. Durante la manifestazione si potrà assistere ad una dimostrazione pratica su come si produce la tradizionale tosella. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Il Quadrifoglio, ricordandovi che potete ascoltare questa trasmissione o scaricarla dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.